La storia e la memoria di Dino Pesole e Alessandra Scaglioni. Buona serata e ben ritrovati all'appuntamento con La storia e la memoria. L'approfondimento di Dino Pesole è dedicato al giudice Vittorio Occorsio, ucciso sotto casa a colpi di mitra la mattina del 10 luglio 1976 da un comando di ordine nuovo. Ospite ai nostri microfoni Eugenio Occorsio, figlio di Vittorio e autore del libro Non dimenticare, non odiare, storia di mio padre e di tuo nonno, edito da Dalai. Ma ora la parola va a Dino Pesole. Negli anni del terrorismo, il meglio della magistratura è caduta sotto i colpi di pistola dei terroristi di destra e di sinistra e dei mafiosi. Non mi sembra purtroppo che questa memoria sia particolarmente sentita e scolpita nell'anima degli italiani. Leggiamo queste frasi nella prefazione scritta da Eugenio Scalfari del bel libro Non dimenticare, non odiare, storia di mio padre e di tuo nonno, che Eugenio Occorsio ha appena pubblicato per le edizioni Dalai. Un libro scritto sotto forma di racconto al figlio per ripercorrere la storia di un omicidio, quello del padre, il giudice Vittorio Occorsio, ucciso sotto casa a colpi di mitra la mattina del 10 luglio del 1976 da un comando di ordine nuovo. Uno dei tanti servitori dello Stato caduti negli anni di piombo sotto i colpi della furia omicida terrorista. Pierluigi Concutelli, l'esecutore materiale dell'omicidio, è stato condannato all'ergastolo, ma il 19 aprile dello scorso anno, dopo aver trascorso la metà della sua vita in carcere, gli è stata riconosciuta la sospensione della pena per gravi motivi di salute. Eugenio Occorsio, collega di Repubblica, dopo 35 anni ha trovato la forza e il coraggio per raccontare questa storia drammatica, lacerante. Quando suo padre venne ucciso aveva 20 anni. La cifra morale del libro è tutta nel titolo, Non dimenticare, non odiare. Eugenio Occorsio è in studio con noi questa sera. Buonasera Eugenio. Buonasera, ciao. Allora, per prima cosa, ci spieghi perché hai deciso di scrivere questo libro 35 anni dopo quella drammatica mattina? Beh, è stata un'iniziativa particolarmente sofferta, praticamente 35 anni sono tanti, praticamente meditata. A questo punto mi è sembrato opportuno scrivere qualcosa innanzitutto per un omaggio alla memoria di mio padre e poi anche perché c'è stata questa liberazione di Concutelli che ha un po' mosso le coscienze, mosso le animi, provocato tensioni addirittura all'interno della nostra famiglia. Insomma, è stato un fatto scioccante e traumatico. Il titolo è, diciamo, che sintetizza direi efficacemente, perché l'ha fatto l'editore, questa mia iniziativa, cioè non dimenticare, o dire, rivolto, diciamo, anche a tutti quanti, alla collettività. Ci sono stati anni del terrorismo in Italia molto difficili, con vicende torbide, oscure, in buona parte ancora non chiarite, e non odiare perché i terroristi in massima parte hanno pagato carissimo questa loro scelta folle e hanno fatto lunghissimi anni di carcere, e se una società democratica e degna di tal nome deve cercare in qualsiasi modo possibile di riabilitarli se possibile. Allora vorrei che tu leggessi per noi un passaggio del discorso che hai tenuto il 9 maggio dello scorso anno al Quirinale in occasione della giornata della memoria, evento, lo ricordo ai nostri ascoltatori, che si celebra ogni anno proprio per rievocare le vittime delle stragi e del terrorismo. Allora, noi, tutti noi, siamo ben diversi da coloro che ci hanno devastato la vita e per questo, proprio noi, dobbiamo dare al Paese, che ne ha assoluto bisogno, un messaggio di lucidità, di sobrietà, di serenità. Lo so che è difficile. Io ero in casa la mattina del 10 luglio 1976, quando mio padre è uscito serenamente per andare al lavoro come al solito. Si chiamava Vittorio Occorsio, era un magistrato, sostituto procuratore a Roma. Una doppia raffica di mitra ha squarciato l'aria del nostro tranquillo quartiere. Sono sceso precipitosamente per le scale, appena in tempo per vedere mio padre morirmi sotto gli occhi, mentre sull'asfalto si allargava una macchia di sangue che non dimenticherò mai. Ho allungato la mano verso di lui per toccarlo, per rendermi conto che non era un incubo, ma qualcuno pietosamente mi ha fermato. Come me, tutti voi avete vissuto momenti altrettanto tragici, indescrivibili, irrimediabili. Eppure, anche se nessuna provvidenza divina riuscirà mai a consolarci e a darci una ragione di quanto è accaduto, dobbiamo compiere assolutamente lo sforzo di renderci proprio noi, perché il destino ci ha chiamato a questo compito e a questa prova, portatori di un messaggio di pace e di unità, appunto, uniti come l'Italia, all'interno dell'Italia e del suo corpus di leggi a partire dalla Costituzione. Il dolore lancinante e intollerabile può sfociare nella rabbia, generare reazioni che sarebbero altrettanto irrazionali dei comportamenti che l'hanno provocate, ma proprio qui deve emergere la differenza fra chi è membro di una società civile ed è orgoglioso di esserlo e chi invece ha scelto di starne ai margini come terroristi. Occhio per occhio non esiste. Alle 8:15 del 10 luglio 1976, Vittorio Occorsio lascia la sua abitazione in via Mogadiscio a Roma per recarsi in ufficio presso la Procura della Repubblica, da solo, a bordo della propria autovettura. All'altezza di via Giuba viene ucciso a colpi di mitra da un comando di ordine nuovo. Per i terroristi il magistrato è colpevole di avere, per opportunismo carrieristico, servito la dittatura democratica perseguitando i militanti di ordine nuovo e le idee di cui essi sono portatori. Occorsio aveva istruito due distinti procedimenti a carico di numerosi esponenti e militanti del movimento, imputati di ricostruzione del partito fascista. Il primo processo era stato definito in primo grado con sentenza del 21 novembre 1973 della prima sezione penale del Tribunale di Roma, a seguito della quale il ministro dell'Interno aveva ordinato lo scioglimento del movimento. Il secondo processo, mentre era in corso di trattazione davanti alla terza sezione penale del Tribunale di Roma, era stato sospeso con ordinanza del 27 gennaio 1975, decisione contro la quale il giudice Occorsio aveva proposto ricorso accolto dalla Cassazione. Negli anni 70 aveva istruito il processo per la strage di Piazza Fontana del 12 dicembre 1969, con la quale ebbero inizio gli anni di piombo e la strategia della tensione. Emilio Alessandrini, Francesco Coco, Nicola Giacumbi, Girolamo Minervini, Riccardo Palma, Mario Amato, Fedele Calvosa, Girolamo Tartaglione, Guido Galli. È il lungo elenco dei magistrati uccisi, tutte persone, scrive Eugenio nel libro, che lavoravano per lo Stato e non contro qualcuno. Bene, ricostruiamo insieme, seppure per grandi linee, i fatti salienti che precedettero l'omicidio. Tutto parte dunque dalla strage di Piazza Fontana. Sì, mio padre era allora un giovane magistrato appena arrivato a Roma. Tutto parte veramente un po' prima, sì. Nel 67, col processo Sifar. Fu il suo primo incontro con le trame torbide che dovevano portare poi al terrorismo. Sifar era una storia di tentato golpe da parte di alcuni generali che facevano capo appunto a Sifar, che è il servizio segreto da allora. E lui fece questo processo, riconobbe la fondatezza delle accuse che erano state mosse a questi generali, che c'era stato effettivamente un progetto golpista. Poi c'è stata Piazza Fontana, della quale lui si dovette occupare per semplici motivi di turno. Era di turno quel giorno, c'erano stati nel stesso pomeriggio degli attentati anche a Roma, per cui per una successione temporale, era secondo le norme precise, era codificato che dovesse andare a Roma il processo, e lui si è preso l'intera, erano ovviamente tutti collegati fra di loro gli attentati, ha preso l'intera questione e ha fatto queste indagini drammatiche, Valpreda. Poi lui già da quando accusò Valpreda si rese conto che c'erano personaggi strani, torbidi e di destra dentro, infiltrati negli anarchici, che non era solo l'infiltrazione della polizia, che c'erano anche i poliziotti infiltrati, giustamente, c'erano anche questi personaggi che proprio facevano gli agitapopolo in mezzo agli anarchici. C'era un certo Merlino, che era un ordinovista. Ordine Nuovo, guarda caso, poi è l'organizzazione che l'ha ucciso, quindi qualcosa su questo andrebbe in modo riflettuto. E poi ha cominciato a fare il processo Ordine Nuovo nel 72, è cominciato a ristrutturare contro Ordine Nuovo, che era un gruppuscolo d'estrema destra, all'interno del quale c'erano anime veramente assassine, bombarole, insomma gente che non faceva soltanto le azioni dimostrative plateali, ma sparava, dava processi a sobillare il popolo, insomma faceva attività sovversive, tanto che lui riconobbe che questa associazione aveva ricostituito il partito fascista, cosa vietata dalla legge, ancora oggi vietato, e la fece condannare e mettere fuori legge. E questa gliel'hanno giurata, gliel'hanno perdonato, dopo qualche anno l'hanno ucciso. È stata la sua condanna a morte in qualche Lui aveva istruito un secondo processo contro l'Ordine Nuovo prima di essere ucciso, che poi è stato fatto qualche anno dopo la sua morte. Ecco, in questa tua ricostruzione che hai condotto con coraggio, ma anche, vorrei dire, con spirito di cronista proprio, hai scoperto qualcosa anche, come dire, di inedito, perché ci sono ancora diversi lati oscuri in questa vicenda. Diciamo sì, lavorando a questa cosa, a questi ricordi personali, mi sono ricordato sì. di essere un giornalista e quindi ho cercato di ricostruirli un po' analiticamente, basandomi sui documenti che mio padre aveva conservato e che mia mamma tutti questi anni ha gelosamente custodito in un armadio apposito di casa, che erano un fiume, una marea di carte, di rapporti, di requisitorie dei processi, di informative della polizia, ovviamente ritagli stampa, insomma c'era questo mucchio di carte indistinte. Ho cercato di mettere un po' in ordine le cose per cercare di dare un contributo alla conoscenza di quegli anni. Ho cercato di fare una specie di racconto di queste vicende singole, tutte però tutte concatenate fra di loro, e di metterle appunto in una certa logica storica. Ecco, un'ultima cosa, Eugenio, la scelta di adottare questa anche struttura narrativa, e quindi il racconto a tuo figlio, che peraltro si chiama Vittorio. Come tuo padre, Vittorio, e quindi è la storia di tuo padre e di suo nonno. Come mai hai avuto questa idea? Beh, perché io amo molto mio figlio, diciamo, quindi mi è fatto piacere scrivere in forma epistolare a lui. E quindi io ho cercato di, lui come rappresentante, ha 24 anni, come rappresentante delle nuove generazioni, dice, guarda questo paese, in che razza di storie è passato. E quindi ho raccontato queste vicende che poi hanno riguardato direttamente la nostra famiglia. Non ha mai conosciuto ovviamente mio padre, certo. È nato molti anni dopo. Bene, grazie allora, grazie Eugenio per questo bel libro e anche per questi approfondimenti di questa sera. Grazie, grazie a voi, buonasera.